shit, you better bide your time instead. Cause if you want money in your pocket and love laid out in bed, you better hold your tongue and watch it. You better bide your time instead. There's a bad, bad man, and he calls your name, and he's showing you a quick glimpse of fame, and he's leading you down temptation lane. Yes, he's leading you down temptation lane. Ha! Sisterhood is Blooming, puntata numero 5. E per una volta ci siamo sentite la sigla tutta intera. Queste erano le Grand Hall Party con Bad Bad Man. Quindi insomma ce la siamo goduta per una volta, sì. Visto che il terzo orgasmo ha fatto cilecca, come spesso succede, diciamo, nella vita reale, quando troppo si vuole. E quindi insomma salutiamo Lady Nancy, che era un po' affranta, giustamente, perché il computer l'aveva lasciata a piedi all'improvviso. E quindi prendiamo un po' il posto loro, un po' ci prendiamo i minuti che generalmente ci mancano. Abbiamo allungato un po' la scaletta. Un puntatone. E quindi cerchiamo di fare un puntatone e di farvi ascoltare un sacco di musica bella, speriamo che vi piaccia. E anche di fare un po' di chiacchiere stasera con calma, perché sì, volentieri. Ci sono un sacco di cose da dire, oltre c'è sto Pride. È una settimana bella intensa. Qui a Roma è veramente, per chi ci ascolta in streaming, sono tanti. È una settimana intensa, perché c'è tutto quello che succede intorno allo Europride, che non è soltanto la parata che ci sarà sabato, ma insomma anche tutta una serie di iniziative e tutta una serie anche di critiche che si possono fare, giustamente, no? Yes. Facciamo? Sì, comincia pure. Prego. No, io mi sono dimenticata di portare lo Europride Magazine, che è questa rivistina che hanno fatto uscire proprio, in cui si presentava, diciamo, la parte ufficiale, ovviamente, perché per esempio oggi hanno parlato della programmazione che ci sarà al Kesbile, che è una programmazione molto interessante che accompagna tutta la settimana e che invece, diciamo, non fa parte della programmazione ufficiale. E che è una rivista soprattutto per i maschi, dobbiamo dire questo fatto. Assolutamente. È piena di intanto è piena dei maschi che non esistono, perché sti 1,90 m per 3 m di spalle, ma dove si vedono? Cioè, a parte, insomma, a me non mi interessa, però voglio dire, non è vera sta cosa, non ci stanno in giro così figoni. Nell'immaginario, certo. L'immaginario gay. E poi voglio dire, cioè, queste serate techno house, cioè, ma ne vogliamo parlare? Ma perché? Anche perché? E sta Lady Gaga? Lady Gaga è la ciliegina Lady Gaga sulla torta. Ciliegina sulla torta, per fortuna siamo riusciti ad averla a chiusura della parata di sabato. Hanno mobilitato pure l'ambasciatore. Dico, ma mobilitiamo questo ambasciatore per qualcosa di più serio che Lady Gaga alla fine del corteo, scusate, ma insomma, a parte che a me non piace Lady Gaga, ma non credo che insomma sia proprio il massimo del... Beh, no? Non rappresenta, insomma, non rappresenta proprio nessuno, a parte le la classe discografica, se vogliamo chiamarla così. La classe gay. Ma vabbè, passiamo alla musica, va. Io stasera incomincio con una band molto giovane che fa indie rock. Loro si chiamano gli Yuk, scritto YCK, l'arrivano da Londra e il loro primo album omonimo è uscito per una bella etichetta indipendente di cui già abbiamo parlato, che si chiama La Fat Possum, a febbraio di quest'anno, e ha avuto un bel successo di critica e di pubblico. Hanno un suono decisamente anni 90, che è insomma una cosa che, devo dire la verità, mi appassiona tantissimo, perché sono di quegli anni, insomma sono cresciuta con la musica di quegli anni. Vengono paragonati ai Dinosaur Junior, Sonic Youth, insomma, quindi secondo me anche molto agli Io La Tengo, quindi è un'altra bellissima band di cui magari una volta vi parleremo, e saranno in concerto qui a Roma il 30 giugno, quindi se smanettate un po' sul web trovate anche i riferimenti di dove suoneranno, perché come sapete, se non sono posti gratuiti, preferiamo non fare pubblicità, perché insomma a noi non ci danno niente, quindi non vedo perché io dovremmo fare pubblicità. E io ho una piccola dedica da fare su questo pezzo che stiamo per mettere su, che è il pezzo si chiama Rose Give a Lily, che è appunto dal primo album degli Yuk, che è un po' cioè, un mio amichetto di vita, con il quale avevo una band quando avevo 17 anni, insomma noi facevamo noise, ci ispiravamo molto, Sonic Youth non a caso, e a quella musica che ci piaceva un sacco sentire. e con Alfredo avevamo questa bellissima band, perché per noi era fantastica. Secondo me dovrebbe essere obbligatorio dai 16 anni almeno ai 20 anni avere una band, suonare qualsiasi strumento, cantare quello che vi pare e divertirvi immaginando quello che fareste se la gente veramente venisse ad ascoltare voi e a comporre brani, a lavorare insieme, a farsi miliardi di film, perché è una cosa fighissima, è una bellissima energia. È un'esperienza proprio di gruppo, no? Corale, bella, se serve. Serve a crescere, sì. Quindi io vi faccio sentire questo pezzo strumentale degli Yuk, il loro album è omonimo, quindi Yuk, il pezzo si chiama Rose Gives Lily. Oh. Che bellezza, una band di giovani che suona bene, puliti. E mi sono dimenticata di dire che questo pezzo era per Alfredo e il suo little baby che sta per nascere. Oh. Perché ci voleva una dedica. Tra l'altro Alfredo vive a Londra, si ascolta da Londra, quindi insomma spreda il nostro entusiasmo sisters. Ok, allora io invece comincio parlandovi di un gruppo che ho scoperto da poco e che mi piace moltissimo. Si chiamano Elizabeth and the Catapult di Brooklyn. La leader è Elizabeth Zyman, che suona con altri due ragazzi che si chiamano Dan Mollard e Pete Lalish. Loro si sono formati nel 2004 e sono diventati subito famosi con il loro primo album, che si intitola Taller Children, e infatti dopo vi farò sentire il singolo che dà il nome all'album. Sono stati notati dalla Verve Music Group e li hanno messi subito sotto contratto. E Elizabeth, qualche nota biografica: lei cresce nel Greenwich Village, quindi insomma cresce nella musica, comincia come pianista classica, e una cosa curiosa è che scrive il suo primo pezzo in una lavanderia a gettoni, utilizzando come drum machine la macchina che serve per asciugare i panni. Chi non l'ha fatto? Esatto, infatti, a un certo punto della vita. Una cosa normalissima, no? Insomma, si fa sempre così. E quindi niente, loro diventano famosi per il loro primo album, che si intitola Toddler Children, e il secondo è del 2009, invece si intitola The Other Side of Zero, e sono pezzi particolari, passano da pop con venature elettroniche a pezzi completamente folk. Quindi in Italia ci sono stati un paio d'anni fa, ancora non si parla di tournée perché l'album nuovo non è ancora uscito. Io spero di poterli vedere presto e vi faccio sentire ora il singolo che li ha resi conosciuti a tutti, che si intitola Taller Children. Sono Elizabeth and the Catapult. Just all the children, we're all just all the children, we're all just all the children, we're all just all. siamo bambini alla fine, no? Siamo tutti bimbi. Assolutamente. Taller Children. Vabbè, questo è anche un buon augurio per il futuro, dai, esatto. In generale. E il secondo pezzo che ho scelto per voi invece stasera è Ida Maria. Lei è una, diciamo, cantante norvegese che ha avuto insomma un discreto successo in patria, che non è come, cioè, dire c'ho successo, capito, come vedi, sei famosa in Norvegia, vabbè, stica, nel senso, cioè, vedi, Norvegia, però poi per fortuna l'hanno notata nel Regno, per fortuna per lei l'hanno notata nel Regno Unito, è apparsa anche nel programma televisivo Later with Jules Holland, che è un bellissimo programma, non so se tu l'hai mai visto. No, io insomma mi sono accorta del suo programma, non ho vissuto un pezzetto della mia vita in Inghilterra, ed è una fighissima cosa che, di cui ci sarebbe bisogno anche in Italia. Un tipo che fa questo programma una volta a settimana, tardi, insomma, la sera, su una rete importante, insomma, che si vede in chiaro, e che ha dei 3-4 palchi lì nello studio e parla di musica. Ogni tanto dice: stasera c'è qui PJ Harvey, stasera così. Ci fanno due pezzi White Stripes, così, insomma, tra una cosa e l'altra. Gente che passa sotto, che passa così studi, a caso, da quelle parti, come da noi più o meno. Esatto. Ci abbiamo Lady Gaga all'Europride, e Anna Calvi dovunque. Guarda che c'è una tournée Anna Calvi in Italia, so, che fa paura, sta praticamente so, dappertutto. Penso che le manca solamente la festa della Madonna dei Pompei e poi se le fa tutte le feste e i festival. Comunque, ritornando a Ida Maria, insomma, ha avuto un discreto successo nel Regno Unito. Lei è una tipa molto particolare, lei fa un rock, proprio rock, tipo Clicks, insomma, se conoscete il genere, proprio bello, pulito, niente di eccezionale, però ascoltabile e bello, soprattutto per chi adora il genere. È una cosa figa di Ida Maria, che lei soffre di una malattia che si chiama sinestesia, che non tutti sanno che cos'è. Racconta. Ed è praticamente una contaminazione sensoriale. Quando qualcosa, diciamo uno stimolo esterno, attiva uno dei tuoi sensi, anche un altro senso è stimolato, pur non avendo uno stimolo reale. Per esempio, ti mangi una mela e ti senti la musica classica come se te la stessero mettendo mica male. Non male, vero? No. Oppure vedi gli uccelli e senti il canto delle sirene, che ne so, una cosa così. Lei in particolare ha la visione dei colori, praticamente, vede colori quando ascolta musica, quindi insomma, una sorta di pittrice musicista. Intanto, lei ha fatto un paio di album, uno nel 2008 che si chiama Fortress Around My Heart e l'ultimo, che è dell'anno scorso, si chiama Catla. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è Oh My God. Lei si chiama Ida Maria. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, oh my God. Are you sick? I'm in control, oh my God. Oh, you think it's all for fun, oh my God. Oh, you think I'm in control, oh my God. Oh, you think it's all for fun. Been a smile, been a smile on my face, been a smile, been a smile on my face, been a smile, been a smile on my face, been a smile, been a smile on my face, put a prize, put a prize on my soul, put a prize, put a prize on my soul, put a prize, put a prize on my soul, put a prize, put a prize on my soul, oh my God. Oh, you think I'm in control, oh my God. Oh, you think it's all for fun, oh my God. I think I'm in control, oh my God. Oh, you think it's all for fun, find a cure. Oh my God, oh, you think it's all. pugnalone live proprio, yeah, come nei concerti. E io invece passo a un genere più tranquillo con Twin Sister, le gemelline, insomma, che in realtà non sono due, ma è un quintetto di Long Island, New York, che fa un genere di musica che può essere definita sognante. Loro definiscono il loro pop sognante. Dream pop. Sì, e a volte ballabile. Questa è la loro definizione. Mentre sogni, la gente sono strane. Gente sono strane. Esatto. La leader e vocalist del gruppo si chiama Andrea Estella. E hanno fatto due EP loro soltanto, completamente autoprodotti. Il primo nel 2008 e l'ultimo nel 2010. E l'ultimo è molto interessante, si intitola Color Your Life. E è carina anche la copertina, perché praticamente loro hanno fotografato l'interno di una casa di bambole, e tutti i pezzi che compongono l'EP sono strutturati e pensati come se loro stessero dentro questa casa di bambole e stessero appunto descrivendo le situazioni che vivono in questa casa, quindi per questo sognanti eccetera. Sì. E una cosa carina, io li ho trovati perché cercando Toon Yards, che abbiamo sentito l'ultima volta, ho trovato appunto che loro aprivano i concerti di Toon Yards, quindi molto carina questa collaborazione fra di loro. E l'etichetta che loro, oddio, stasera non ce la faccio, l'etichetta per la quale si autoproducono si chiama Infinite Best Recording. E ora vi faccio ascoltare un pezzo dal loro ultimo EP Color Your Life. Il pezzo si intitola All Around and Away We Go. Loro sono Twin Sister. We'll be right back. niente male queste Twin Sisters. Sì. Altre sisters che vi presentiamo. E io invece vi faccio ascoltare una band di cui so pochissimo, cioè di cui si sa pochissimo in realtà. Loro si chiamano i Cults, sono Brian Oblivion e Madeleine Follin, sono un duo. Ed è una indie pop che arriva da Manhattan. Americani stasera, quanti americani. Di New York. E loro sostanzialmente sono diventati famosi, insomma si sono fatti ascoltare in giro grazie al loro primo EP che si chiama Cult 7 Inch, che hanno pubblicato, insomma hanno messo online su Bandcamp, che è insomma questo sito molto figo dove si può mettere la propria musica, è una sorta di MySpace però un po' più meno social e più dedicata alla musica, che sta riscuotendo un discreto successo e dal quale moltissime band riescono a farsi ascoltare e poi anche a farsi produrre. Quindi pochissime notizie biografiche su questi Cults per il momento, speriamo di vederli presto in concerto. Io vi faccio ascoltare questo pezzo che è abbastanza curioso e carino, mi ha insomma stuzzicata molto, quindi poi vedremo che cos'altro sanno fare. Loro si chiamano Cults, il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Most Wanted. Che carine, vero? Un po' cinesine, un po' estive, un po' retro. Originali però. Sì, sì. Ci piacevano. Allora, io vi parlo invece ora delle Ditty Bops. Vogliamo ricordare il numero, la musique che sono veramente terribile, 06491750 se volete farci degli squillini e farci sentire che ci siete dall'altra parte della radio. Dell'etere, si diceva. E anche il nostro blog, magari, se volete, sappiate sì. Che noi facciamo, mettiamo su online non solo il podcast della puntata per chi se l'è perso, e se lo vuole ascoltare con calma, magari, che ne so, mentre fa il pedicure, eccolo qua, uno squillino, o mentre, che ne so, cucina, eccetera eccetera, si può riascoltare il nostro podcast, che generalmente è online dopo un paio di giorni. Il pedicure è piaciuto, un altro pedicure squillino. È piaciuto perché oppure potete anche, quando è possibile, noi cerchiamo di mettere online in maniera del tutto piratesca la musica, esatto, che vi proponiamo, quindi insomma spesso potete anche scaricare quello che vi facciamo ascoltare, oltre a leggere la playlist se vi siete persi gli appuntini, ecco. Ok, e allora io vi parlo delle Ditty Bops, che sono una coppia di fatto, sono Abby the World e Amanda Barrett. In onore della settimana del Pride! Esatto, un altro squillino! Successone stasera. Allora, loro sono particolari perché prima incidevano per la Warner Bros., e una volta diventate famose hanno deciso di autoprodursi, quindi hanno fatto praticamente al contrario di quello che fanno la maggior parte degli artisti, una, no? Figa, che partono indie, hanno sfruttato, esatto, il sistema e poi l'hanno spanculato. Fantastiche. E Abby suona la chitarra acustica e canta, e Amanda Barrett canta e suona il mandolino e il dulcimer, che è uno strumento a corde pizzicate che è particolare, ha un suono medievale, mi sa, no? È un suono molto orientale, arriva dalla Persia, è una derivazione del santur, che è uno strumento persiano ed è usato soprattutto nella musica irlandese. Perché il Sisterhood is Blooming è anche questo, esatto, è anche cultura musicale. Esatto. Allora, vi parlo un po' di Amanda e di Abby. Loro si conoscono nel 1999 e si fidanzano subito, si innamorano, però non suonano, cioè hanno questa passione ma non suonano professionalmente. Succede un fatto, che il vicino di casa perde il gatto e da buone lesbiche. E da buone lesbiche vanno a cercare il gatto per tutto il vicinato. E qui incontrano un ragazzo appassionato e collezionista di chitarre, che, col quale cominciano a suonicchiare insieme, e lui le sprona, le incoraggia a formare una band, e da allora non si sono più fermate. Loro sono particolari, stanno molto attente anche alle cause, diciamo, ambientaliste, tanto che nel 2006 hanno fatto un tour in bicicletta, giravano con le loro biciclette e con le loro chitarre, si fermavano e facevano il concerto, e hanno viaggiato da Los Angeles a New York, hanno fatto praticamente 4500 miglia in bicicletta, è stata molto carina questa cosa. E nell'ottobre del 2008 annunciano il loro matrimonio in California via email a tutti i fans di MySpace. E nel 2009 invece, una pecca possiamo dire, cantano nel Christmas album di Bob Dylan. Questo diciamo, è lo scheletro nell'armadio, esatto, che abbiamo svelato subito. Esatto. E quindi io vi faccio ascoltare uno dei loro primi pezzi, e loro sono le Ditty Bops, e noi ci ascoltiamo Gentle Ship. See those gentle sheep following a path that who knows is my mystical pan who plays on his flute. Entrancing those who choose to hear his tune. There'll be a man who comes out of hiding. He'll be the one who forces you to decide. Why can't I just believe, just believe? Diri boops, ditti bops, ditti bops, dovrebbe essere. E volevo salutare Anne Karin dell'Alphabet Bed and Breakfast di Bologna, perché ho conosciuto le ditti bops nel loro bed and breakfast. Figo, che è bed and breakfast gestito, si può dire, no? Da due lesbiche, che insomma sì. Ci fa piacere. Se volete contatti, rintracciateci scrivendoci su www.twowomenshow.wordpress.com, che è il nostro blog, dove appunto troverete il podcast e la playlist con i link dove scaricare la musica che avete ascoltato, se vi è piaciuta. Sisterhood is Blooming è il nostro gruppo su Facebook, dove ci potete chattare anche adesso mentre siamo online, oppure su Twitter se avete un account Twitter, Sisters on Air, tutto attaccato. Vi ricordo il numero 0649 1750, e mi sembra che ho detto tutto. Tanto sei brava a dire queste cose. Vero? Le comunicazioni di servizio le lascio sempre. Le faccio benissimo. E intanto vi passo a parlarvi di un'artista che si chiama Lovisa Elisabeth Sigrunardottir, che per fortuna si è scelta un nome facile invece come nome d'arte, che è Laylo, proprio super easy. Lei è dell'82, è nata a Londra, è metà da padre srilanchese e madre, diciamo, islandese. Si è trasferita in Islanda quando era piccola, quindi lì vive tuttora, quindi sostanzialmente di cultura islandese. L'anno scorso è stata in tour, pensa un po' con chi? Con non... Lady Gaga. No, ma con una delle poche artiste famose dell'Islanda, che è Emiliana Torrini. Ah. Insomma, un'altra artista che io trovo abbastanza interessante. Non mi piace tutto quello che fa, sì. Però insomma, alcune cose sono molto belle. Quindi apriva i suoi show l'anno scorso durante il tour di Emiliana Torrini. Ha tre album all'attivo e un paio di colonne sonore per film islandesi, che io non ho visto, quindi insomma non so dire di che cosa si tratta, non metto bocca su queste cose. La sua musica, insomma, lei fa è metà srilanchese, metà islandese, è nata a Londra. Mamma mia, meraviglia. E fa country folk blues, quindi yes. È veramente una cosa molto molto particolare. Contaminated. Non è esattamente quello che ci si aspetta da un islandese, ecco, diciamo. L'album da cui ho scelto questo pezzo, diciamo che secondo me è il suo lavoro migliore, si chiama Farewell Goodnight Sleep. E adesso sta lavorando a un nuovo album. Sul suo blog, insomma, aggiorna le persone che sono interessate, i suoi fan del lavoro che sta facendo, che uscirà il prossimo autunno. Vi ricordo come si chiama, lei è Laylo, e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Why Do I Worry? Fight or what I'll fight. Bella, bella, bella, bella atmosfera. Allora, dopo questo pezzo io vi parlo dei Via Audio, sarebbe scritto Via Audio. Loro sono originari di Boston, stasera quasi tutti americani gli artisti che ho è scelto. È capitato, è strano perché di solito non mi capita. E loro sono particolari perché hanno fatto 3 dischi e hanno cambiato tutte e 3 le volte etichette, sempre etichette indipendenti. Il primo con la Kilt Normal, il secondo con la Sideco e l'ultimo con la Undertow Music Collective. E è una band con la leader Jessica Martins, che canta ovviamente, suona le tastiere e la chitarra. E qui ritroviamo Dan Mollard, che fa già parte dei Elizabeth and the Catapult, e altri appunto artisti che collaborano con loro saltuariamente. E allora, il primo album è un EP che loro fanno nel 2004, poi nel 2007 il secondo, appunto Say Something con la Sideco, e nel 2010 Animal Ore. Io da Animal Ore ho scelto il pezzo che vi andrò a fare sentire. Non si trovano tante notizie riguardo ai Via Audio, e anche qui infatti dovete mettervi un po' a cercare. È carino perché oltre agli strumenti classici di una band, loro utilizzano l'ukulele, che ormai sta andando così tanto di moda nelle formazioni indie, e il cajon. Quindi io vi faccio ascoltare dal loro ultimo album del 2010 il pezzo che si intitola Tigers. Loro sono i Via Audio. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Allora, il prossimo gruppo ve la dico subito la, come si chiama, perché sono in francese, io sono negata in francese. Le Corps Mans de Françoise. Oui, ma c'est parfait, ma chérie. Bomba. È inutile che fai la stronza, perché non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Niente, io non parlo in francese, quindi l'ho detta. L'ho detta subito. Diciamo, normalmente le trovate anche in giro con la sigla LCMDF, lo dico in inglese così vi frego, che il nome del gruppo è Il Corpo Tutt'Ossa di Françoise, perché è maschio, e che rende omaggio al defunto gatto anoressico di una di queste tre giovanissime finlandesi. Quindi ci siamo allontanate finalmente da New York e dall'America in generale e andiamo in Finlandia. Sono molto giovani, molto sopra le righe, molto arrabbiate con la scena finlandese, che non ha molto puntato sulla loro musica. Cantano in inglese con l'accento finlandese, che è veramente uno spettacolo, devo dire, e fanno un elettropop molto divertente, molto irriverente. Ricordano un po', almeno da un punto di vista del, diciamo, dell'umorismo e dell'atmosfera che si respira nei loro pezzi, le Slits, di cui vi parlavamo la puntata scorsa. Il poi vedo che hanno una copertina molto carina, molto divertente, con l'uovo. Sì. L'uovo, come si dice questo? L'uovo in camicia? No, l'uovo fritto. L'uovo fritto, sì. Un semplice uovo fritto. Il primo album si chiama Love and Nature, è uscito quest'anno per la Heavenly Records, che è una bella etichetta indipendente londinese che ha gli uffici a Soho. E dalle loro mani sono passate gente come i Doves o i Nala Surf, insomma, che per chi ama questo tipo di musica sicuramente saranno nomi significativi. Se vi capita di passare a Londra o di andare un weekend a Londra, vi consiglio anche il locale che è stato aperto dall'etichetta Heavenly Records, che si chiama The Social, e si trova a Oxford Circus, e c'è un sacco di bella musica, passano sia band della loro etichetta che di altre piccole etichette indipendenti, e si entra gratis, che è una cosa fighissima. Wow. Perché in America e in Inghilterra molto spesso si entra gratis. La cultura è un diritto. È una cosa fantastica. Quindi insomma, Heavenly Records, se andate in Inghilterra passateci al Social, all'Oxford Circus. Loro sono LCMDF e il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama We Are Cannibals. Down the street doing the Secondo me questa canzone piace molto a un nostro amichetto Checco. Checco e Gabe. E Gabe. Intanto volevamo ringraziare Anna e Roberta che ci hanno portato i viveri e che sono qua con noi in regia. Birra fresca e patatine. Esatto. Se la dieta unirvi, della vera siamo di... qua, a Via dei Voici 56. Se avete altre cose da portarci. Allora, io invece adesso vi parlo... Qualcuno ha fatto lo squillo, quindi qualcuno verrà a trovarci. Ok. Vi voglio parlare invece di Margaret Kammerer, berlinese. Due o tre settimane fa noi siamo andate al Cinema Aquila a vedere un documentario molto bello di Valentina Monti, un documentario che racconta la storia di Radio Saar, una radio fondata da donne. Questo documentario si intitola Girls on the Air ed è la storia appunto di questa radio che è completamente gestita da donne, che si occupano dei temi di violenza sulle donne e cercano di fare qualcosa appunto nel loro piccolo in Afghanistan. È una radio locale che però sta prendendo sempre più importanza e anzi riescono adesso a gestirsi da sole, ad avere uno stipendio da sole, molto, molto. Sì, la regista ci raccontava alla fine del film, insomma, che ha chiacchierato un po' con il pubblico, che la radio è intanto era la prima radio di donne proprio nell'Afghanistan, esatto. Quindi era comunque un progetto ambizioso, portato lì da una ONG canadese che insomma ha insegnato loro come gestire una radio. È cominciato con un palinsesto di un'ora al giorno e adesso praticamente hanno 8-9 ore, mi sembra, di palinsesto. Sì, 8 ore, sì. Molto, molto impegnativa anche. Sì, e si mantengono appunto doppiando film, facendo speakeraggi per degli spot, insomma, lavorano con le ONG. E con gli spot, sì, delle esatto. ONG che comunque lavorano lì sul territorio. Esatto, a un certo punto appunto noi abbiamo flashato sulle musiche della colonna sonora, che sono scritte da questa berlinese Margaret Kammerer, che è molto famosa già nell'ambito del jazz e della musica sperimentale e in generale, sia e anche nel blues, sia in Germania che in Italia, insomma, vanta veramente collaborazioni di tutti i tipi, Margaret. Valentina, la regista, è stata molto carina, ha cominciato a mandare l'email, abbiamo cominciato a scriverci e Margaret ci ha inviato appunto i suoi pezzi. Noi speriamo, molto disponibile, sì, molto carina. Speriamo di averla qui al più presto, magari da settembre, se riusciamo a mettere su insomma una trasmissione con dei live set acustici, perché sarebbe molto carino. Insomma, poi lei chitarra e voce è magica. E, quindi voglio farvi ascoltare tutti e due i pezzi della colonna sonora di Girls on the Air. Il primo si intitola This is No Longer Love e il secondo è I Speak Out. Li metto in questi ordini perché è stata proprio Margaret a chiedermi appunto di mandarli con questo ordine. Noi la salutiamo in questo momento, lei sta suonando con un gruppo country a Berlino, sta facendo un concerto, quindi le auguriamo buona musica e noi ve la facciamo ascoltare. Lei è Margaret Kammerer. I'm Ricordo perfettamente il momento del film in cui questo pezzo ci ha colpite e ci siamo girate a guardarci, proprio per dire chi diavolo è questa. Insomma, è molto bello questo pezzo, è molto bella e comunque sono i pezzi di Margaret all'interno della colonna sonora di questo bellissimo documentario che vi consigliamo di cercare e di andare a vedere se vi capita. Che ovviamente è stato male distribuito perché è un documentario del 2009, ha girato un sacco di festival all'estero, facciamolo, ma in Italia un po' di polemica. Poca roba. Lei è una bravissima regista italiana che lavora in Inghilterra, vive in Inghilterra, è prodotta in Inghilterra. Non a caso vive a Londra, infatti. Vende i suoi documentari all'estero e chiaramente in Italia non la considerano granché, infatti. Nonostante questo documentario che penso sia uscito 3 anni fa 2009, un paio d'anni fa un paio d'anni fa, comunque in Italia è stato proiettato a Roma e a Bologna, insomma, un paio di volte è tutto qui, quindi insomma ci dispiace, ricordiamo Valentina giusto? Monti, c'è proprio il suo sito, quindi Girls la trovate, e lei Margaret Kammerer. Io intanto voglio fare una piccola dedica prima che me lo dimentico, perché stasera veramente tra le varie cose che abbiamo avuto tutto sto tempo a disposizione ci siamo impazzite proprio. Troppo tempo a disposizione. Io volevo fare una dedica a Francesca, che normalmente ci ascolta da San Diego in streaming, California, che è una cosa fighissima da dire, quindi lo dico, lo posso anche dire volendo, e che invece adesso è in Italia, quindi si sta ascoltando dall'Italia, insomma mi fa piacere salutarla, e siccome ha due figli rockers che sono Daniel e Peter, a lei voglio dedicare il prossimo gruppo, il prossimo pezzo. Una cosa bella è che negli ultimi anni la musica canadese, insomma, tantissimi gruppi canadesi hanno attirato la nostra attenzione. Questa è una cosa bella, insomma, la scena canadese ha tirato fuori veramente cose di qualità un po' di tutti i generi. Sì, voci, ma tipo Katie Lang, possiamo dire Johnny Mitchell, tornando indietro, Diana Krall, io parlo proprio di quelle famosissime, Alanis Morissette all'inizio. Ecco, per esempio, tutte cose, diciamo, nuove, però insomma è vera questa cosa. Oltre alle artiste, diciamo, abbastanza consolidate della scena canadese, cioè, c'è tanto anche indie rock, tante indie bands canadesi che negli ultimi anni, insomma, sono state ben prodotte e si sono fatte sentire. E sicuramente influisce il fatto che in Canada c'è una grande attenzione per le band locali e c'è anche una, diciamo, una parte dei finanziamenti, cioè proprio la musica passata in radio è finanziata dallo Stato, quindi la musica canadese ovviamente, quindi insomma le radio sono incitate, invogliate a passare delle band locali e quindi a farle sentire. Io vi parlo appunto di una indie rock band canadese che si chiama Land of Talk, sono dal 2006, sono composti dalla cantante e chitarrista che si chiama Elizabeth Powell, che prima suonava da sola sotto il nome di L.K., Joseph Yarmush, che suona il basso, Andrew Burr, che suona la batteria. Sono al secondo album, uscito l'anno scorso per la Saddle Creek Records, che è appunto un'altra etichetta indie canadese, che si intitola Cloak and Cipher. Sono molto belli i loro album, io vi consiglio di scaricarli, probabilmente li troverete sul nostro blog www.twomenshow.wordpress.com nei prossimi giorni. Intanto ci andiamo ad ascoltare il Land of Talk dal loro album Cloak and Cipher. Il pezzo si chiama Give Me Back My Heart Attack. Got any tape? Questa era per Francesca, Daniel e Peter, che sono due rockers in erba. Yes. Vogliamo parlare male un po' dello Europride prima di chiudere? Dai, diciamo delle cose brutte. Già abbiamo detto che Lady Gaga ci fa schifo. E infatti ci stavamo chiedendo chi altro suonerà. Allora abbiamo ipotizzato, non so, Paola e Chiara che arrivano alla fine. Così, le fanno un'improvvisata. Esatto. Chi c'è? Cioè, che cosa? Ambra Angiolini ci dicono. Ambra Angiolini l'anno scorso c'era, mi sa. Perché? Soprattutto perché ci chiediamo, perché tutto ciò? Perché ci dobbiamo martorizzare con Lady Gaga, per esempio? Perché che cosa ci potrebbe... Il problema è che cosa ci rappresenterebbe tutti, perché siamo talmente variegati e diversi culturalmente, insomma, mi accorgevo, non so che cosa ne pensi, però l'altro giorno eravamo al Pride Park, che insomma è questo spazio all'interno della villa di Piazza Vittorio, che è appunto dove ci sono degli spettacoli, insomma dalle 6 del pomeriggio fino a mezzanotte ci sono vari spettacoli, vari eventi, vari stand, e dove ci fa piacere, insomma c'è stata anche una partecipazione alle Lady Fest, che è stata probabilmente la serata più carina, più interessante, con delle cose più interessanti da sentire. C'era Lady Maro, c'era la Nania, insomma, a prescindere dai gusti, comunque fanno delle cose belle, suonano la loro musica. Però la partecipazione femminile è veramente scarsissima rispetto al programma ufficiale. Sì, è proprio minima. Cioè, c'è qualcosa appunto le ragazze della Lady Fest, e poi per il resto veramente nulla. E poi in qualche modo ci ritroviamo, e è un peccato dirlo perché abbiamo tanti amici gay, che insomma maschi, a cui vogliamo un bene dell'anima, quindi, però la loro cultura in qualche modo è troppo prevalente e pretende di essere in qualche modo di rappresentare tutti, invece non a caso ci ritroviamo nello spezzone separatista, e quindi dovrebbero fare 50-50. 50-50, ecco, quindi l'anno prossimo sappiate, voi che organizzate il 50-50. Pride, che noi vi manderemo una lista da gennaio con le cose che vogliamo, e voi dovete scegliere almeno il 50% di quello che abbiamo proposto noi. Esatto, le altrimenti quote rosa. Boicottaggio del Pride. Ok, allora io passo proprio a tutt'altro genere, vi parlo di Amanda Blanc, una ragazza di Philadelphia che incide per la Downtown Records. Lei si chiama Amanda Mallory ed è una rapper che lavora soprattutto e collabora con il rapper Spunk Rock, e loro sono in concerto domani l'8 giugno qua a Roma al Circolo degli Artisti, quindi per chi ama questo genere di musica non perdetevela. Ed è una ragazza, insomma, pare che venga descritta come una tigre da palcoscenico, quindi che funziona soprattutto nel live, quindi può essere interessante appunto andarla a vedere e sentire domani. Ha pubblicato un album soltanto, prima ha fatto due EP, nel 2009 è uscito questo album che si intitola I Love You, un titolo originale, fantasia, però insomma il singolo che porta appunto la portata a successo si chiama My Like You Better, che ve lo farò sentire fra poco. Una curiosità: lei ha aperto in Canada i concerti di Peaches, delle Yeah Yeah Yeahs e del Sante Gold, quindi maledizione, insomma, ecco, per esempio la Peaches sarebbe un po' più rappresentativa su un palco conclusivo, esatto, della parata dello Europride, no? Sarebbe sì un po' più, diciamo, anche transgender rispetto a una Lady Gaga. Esatto. E quindi noi adesso ci ascoltiamo questo brano della signora Amanda Blanc, che si intitola My Like You Better. My like you better if we slept together. My like you better if we slept together. My like you better if we slept together. Might look like you better if we slept together. I might like you better, baby. Let's get together, baby. Wanna hold you, get to know you, show you what I got in my sweater, baby. Comb the red hair, the bitch in charge. And if we settle on it, but I make you see stars get large, get hard, go far, go far. Wanna touch you, watch you fucking see my money in my pocket. I might like you better, baby. Let's get together, baby. Wanna hold you, get to know you, show you what I got in my sweater, baby. And if we settle on it, but I make you see stars get large, get hard, go far, go far. Wanna touch you, watch you fucking see my money in my ride, no lie, just get inside me. Like you better if you just ride me, hold me, try me, watch me finish. I'd like you better if you get up in it. I look like you better if Era Man the Blank. Allora, noi, io voglio concludere stasera, vogliamo concludere in realtà Sister Who is Blooming puntata numero 5 con qualcosa di molto diverso dal solito rispetto ai generi e alla musica che noi predileggiamo, diciamo. Però non c'era ancora stata occasione di parlare di questo molto chiacchierato, molto aspettato, molto atteso album di Christina Aguilera, che non è un artista, diciamo, che io seguo per niente, che si chiama Bionic. Bionic. C'è stata tutta una, insomma, anche una piccola, un piccolo passaggio di informazioni, no? tra noi donne, per dire: cazzo, Christina Aguilera sta lavorando con Le Tigre. Guarda che c'è Peaches nel nuovo album di Christina Aguilera. Appunto. Linda Perry, le Forno Blondes, non so se vi ricordate. Ha fatto un paio di pezzi con lei, insomma, altre Ladytron, insomma, tutta una serie di personaggi mossi a lavorare con lei per fare questo bellissimo prodotto. La Catlux, che ci ascolta in radio e che salutiamo, dice che, insomma, agli esordi Christina Aguilera era molto talentuosa, quindi, insomma, si è persa un po' per strada. Io non lo so, perché non l'ho mai ascoltata, quindi non posso dare un giudizio su questa cosa, però ci fidiamo. Fatto sta che almeno, insomma, a differenza di Lady Gaga, si è peraltro ha deciso di insomma, circondarsi di persone di talento, che hanno una bella storia musicale, e di farsi aiutare a produrre questo album, che a me sinceramente non piace, ma mi piacciono due pezzi, quindi, insomma, vi faremo ascoltare questo pezzo che è estratto da questo album, appunto Bionic, che invece può essere un bel tormentone per l'Europride, l'inno dell'Europride, esatto. Pride, insomma, visto che a un certo punto dice nel pezzo, vi recito la frase, che "Now shout my girls, we're stronger than one, and sometimes we gotta have fun". Quindi, insomma, secondo me è un bel inno per l'Europride, almeno per il nostro pezzo di Pride. Quindi vi salutiamo con Christina Aguilera. Vi diamo appuntamento a martedì. Fra due settimane, quindi non martedì prossimo, ma quell'altro. Sisterhood is Blooming, puntata numero 6. Questa è Christina Aguilera più Le Tigre più Peaches, e il pezzo si chiama My Girls. Now shout and some.